Genovese presente. Fatta assente. Scialabba, La Rosa. La Rosa in ritardo. Cortina, Iuppa assente. Motivi di lavoro. Messina Pasquale assente. Cassata assente per ragioni di studio e fuori città. Barranco è presente. Di Chiara è presente. Riggio assente per motivi di salute alla madre, anzi rivolgiamo un caro saluto e un augurio alla signora Riggio di pronta guarigione e un affettuoso pensiero a tutta la famiglia. Quindi? 12 presenti, 8 assenti, la seduta è valida. Nominiamo gli scrutatori. Questa sera, consigliere Pizzillo, consigliere Genovese, scrutatore, consigliere Scialabba, colleghi consiglieri, si tratta di una seduta di rinvio nella quale abbiamo integrato l'ordine del giorno con 11 punti, di cui molti sono dei debiti fuori bilancio. Mi è stato chiesto la scorsa volta e ne ho memoria, quindi anche per questa porzione di seduta chiedo, nella prosecuzione della trattazione dell'ordine del giorno, chiedo ai colleghi consiglieri di votare gli estremi di necessità e urgenza dei punti che avete tutti quanti visionato all'ordine del giorno. Sì. Colleghi consiglieri, chi è favorevole alla trattazione in seduta di straordinaria e urgente di questi punti, alzi la mano. Mi pare all'unanimità dei presenti. Allora, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, lavori di adeguamento. Prego, consigliere Cortina. Grazie Presidente. Io volevo fare notare, se possiamo prelevare i punti 2, 3, 4 e 5 che sono debiti fuori bilanci, e questo visto che è un adeguamento per quanto riguarda la lottizzazione, si può fare per ultimo. Scusi, consigliere Cortina, il primo è l'adeguamento immobile comunale per la realizzazione della rete dei centri visita. E il secondo, quello che lei dice... Il secondo magari... Allora, poi dopo la trattazione del primo, lei mi ridice questa cosa. Allora, il primo punto è lavori di adeguamento immobile comunale per la realizzazione della rete dei centri visita volti alla tutela, valorizzazione e fruizione dell'ambiente e delle risorse naturali nell'ambito del Parco delle Madonie. Approvazione schema di comodato d'uso per l'utilizzo di immobili dei comuni di Cefalù, Gangi, Geraci Siculo e Petralia Sottana. Leggo la proposta di delibera. Il responsabile del settore lavori pubblici, edilizia pubblica e privata, premesso che i consigli comunali dei comuni di Alimena, Blufi, Bonpietro, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani, Bagni, hanno approvato la convenzione che regolamenta e disciplina le funzioni programmatorie, pianificatorie e gestionali della città Rete Madonita, e ciò ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 1 lettera E della legge regionale 4891 e successive modificazioni. L'ente Parco delle Madonie ha approvato la predetta convenzione con deliberazione del Consiglio numero 5 del 13 marzo 2009. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 51 del 6 novembre 2009 è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'attuazione territoriale del POFES 2007-2013 asse 6 sviluppo urbano sostenibile contenente le linee guida la domanda di ammissione e lo schema di protocollo di intesa, nonché la composizione delle coalizioni territoriali che potranno partecipare allo stesso e il relativo cronoprogramma delle fasi di selezione previste, che in data 20 novembre 2009 presso il Comune di Gangi è stato formalmente sottoscritto il protocollo di intesa fra i 28 comuni che compongono la coalizione territoriale, l'ente Parco delle Madonie, la provincia regionale di Palermo e il partenariato pubblico-privato, che l'ente Parco ha preso atto ed approvato il predetto protocollo di intesa con determinazione del commissario straordinario numero 90 del 22 dicembre 2009, che in ragione di quanto precede i soggetti che costituiranno la nuova coalizione sono i comuni di Alimena, Liminusa, Blufi, Bonpietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice, Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Sicula, Gratteri, Snello, Lascari, Monte Maggiore, Belsito, Petreria Soprana, Petreria Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Maro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Marese e Valle d'Olmo, l'ente Parco delle Madonie, la provincia regionale di Palermo e il partenariato pubblico-privato, che è stato approvato lo schema integrativo di convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei soggetti aderenti alla città Rete Madonie Termini, oltre che relativo funzionigramma e ipotesi di budget per il funzionamento dell'ufficio unico, che il Comune capofila aveva proceduto in precedenza all'affidamento della gestione delle strutture messe a disposizione dei comuni per la realizzazione della rete dei centri visita volti alla tutela, valorizzazione e fruizione dell'ambiente e delle risorse naturali del Parco delle Madonie, che le strutture per le quali era stata presentata offerta per la gestione risultano essere quelle messe a disposizione dei comuni di Cefalù, Gangi, Geraci Sicula, Petraria Sottana, oltre a quelle di proprietà dell'ente Parco delle Madonie siti a Petraria Soprana e Scillato, che per la struttura di Petraria Soprana è nel frattempo intervenuta la rinuncia da parte della ditta proponente, che l'ente Parco delle Madonie, con deliberazione del Consiglio numero 8 del 5 marzo 2010, ha conferito l'incarico della progettazione esecutiva all'ingegner La Placa Rosario, domiciliato in Petraria Soprana, che con determinazione del direttore numero 149 del 16 marzo 2010 si è provveduto all'approvazione dello schema di disciplinare e all'impegno delle relative somme, che con deliberazione del Consiglio numero 27 del 24 giugno 2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'ingegner Marco Traina, considerato che per l'intervento di che trattasi la Sosvima S.P.A. ha presentato la necessaria documentazione al Dipartimento regionale della programmazione relativamente all'avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse sesto sviluppo urbano sostenibile seconda finestra, che si rende necessario procedere al perfezionamento degli atti inerenti alla concessione dei locali presso il bastione di Cefalù, di proprietà comunale individuati dagli stessi per la realizzazione della rete dei centri visita del parco, che tali immobili ricadono nei comuni di Cefalù, Gangi, Geraci Sicula e Petraria Sottana, che al riguardo è stato predisposto uno schema di comodato d'uso gratuito all'ente parco per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale ai fini della realizzazione della rete dei centri di visita del parco, per cui è stato predisposto il progetto per l'inserimento nel PIST Città Rete Madonie Termini, che tale schema è stato sottoposto al parere della Sosvima S.P.A., che ha trasmesso il relativo assenso con nota numero 2004 del 19 agosto 2010, che si rende necessario procedere all'approvazione del predetto schema di comodato d'uso, che con l'approvazione dello schema di comodato d'uso gratuito della durata di 20 anni dalla stipula con rinuncia contrattuale a richiederne anticipatamente la restituzione, si garantirà l'intervento di manutenzione straordinaria dei locali presso il bastione di Cefalù per un importo dei lavori a base d'asta salvo modifiche o aggiornamenti di prezziario di circa 51.000 euro che incrementeranno il valore del patrimonio comunale, che l'ente parco si obbliga per tutta la durata della convenzione ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui locali di cui è la presente. Tutto ciò premesso e considerato, propone di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, inerente all'utilizzo degli immobili di proprietà comunale messi a disposizione dagli stessi per la realizzazione della rete dei centri visita del parco volte alla tutela, valorizzazione e fruizione dell'ambiente e delle risorse naturali nel Parco delle Madonie, da sottoscrivere con i comuni di Cefalù, Gangi, Geraci Sicula e Petraria Sottana, di delegare il sindaco pro tempore a sottoscrivere l'allegato contratto di comodato d'uso che fa parte integrante e sostanziale della presente, di dare mandato all'ufficio di segreteria per la trasmissione della presente delibera al Parco delle Madonie, di dare atto che la presente proposta non necessita di parere contabile, di dichiarare la delibera scaturente alla presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva. Ci sono i pareri della terza e della prima commissione consiliare che desidererei leggervi. La prima commissione consiliare si è riunita l'anno 2012, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 8.30 presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale per prosecuzione di sedute. Sono presenti i signori consiglieri comunali Fatta, Giardina, Tumminello. Il presidente ha constatato il numero legale di gara aperta alla seduta e il consigliere Tumminello prioritariamente chiede il prelievo del decimo punto all'ordine del giorno al fine di consentire l'esame alla prossima seduta del Consiglio Comunale, considerato che la terza commissione ha già espresso il proprio parere. La richiesta del consigliere Tumminello viene accolta favorevolmente e la commissione inizia con l'esame della proposta avente per oggetto appunto l'oggetto della nostra proposta di delibera. Data lettura della superiore proposta, la commissione, dopo ampia discussione, esprime all'unanimità parere contrario, in quanto ritiene che tutti gli immobili di proprietà del Comune, considerato il particolare momento di necessità economica in cui versa l'ente, debbono essere messi a reddito e non possono essere concessi a titolo gratuito, a maggior ragione il sito di che trattasi, in quanto rappresenta un valore patrimoniale importante dal punto di vista storico, culturale e monumentale. Poi la seduta continua con la trattazione di altri punti che non ci interessano. Il parere della terza commissione, l'anno 2012, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 15.30, presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la terza commissione consiliare, regolarmente invitata per discutere sul punto all'ordine del giorno, quello che stiamo trattando, Genovese, presenti Genovese, Garbo Vincenzo, Barranco Gioacchino, Liberto Vincenzo, Cortina Santi. Il presidente, constatata la presenza, il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i componenti presenti a iniziare con l'esame della proposta e deliberamente per oggetto quella che stiamo trattando. Esaminata la superiore proposta viene evidenziato il comodato d'uso. Considerato che il Comune in questo particolare momento non si può permettere di dare un immobile in comodato d'uso in quanto andrebbe a compromettere qualunque scelta in merito alla valorizzazione e messa a reddito di una struttura così importante anche per il luogo in cui sorge e di grande interesse storico, la Commissione decide all'unanimità di esprimere parere contrario alla superiore proposta. Ci sono interventi? Prego. Consiglieri, Presidente, questo è l'unico intervento che ha ricevuto un finanziamento, seppur comprensionale, che riguarda diciamo un'attività dell'ente parco, in questi anni che ha visto il Comune di Cefalù impegnato anche con gli altri comuni a portare a casa, possiamo dire così, finanziamenti per opere pubbliche. Riguarda però la ristrutturazione di un locale soltanto del Bastione, in considerazione del fatto che per chi conosce i locali si tratta soltanto del locale piano terra entrando in fondo, lasciando invece nello stesso stato in cui si trovano tutti gli altri locali del Bastione che sono a primo piano e anche a pian terreno. E parte di questi locali, come voi ben sapete, sono occupati da reperti archeologici e abbiamo un accordo con la Sovrintendenza che la mia amministrazione ha cercato di curare un po' di più rispetto al passato, cercando di fare sistemare anche le aperture di questi immobili e cercando ora di togliere quelle che sono questi reperti che sono buttati a terra, abbandonati, e farli mettere in delle cassette che sono state trovate dal professore Tullio al museo di Mera e che l'amministrazione prossima settimana cercherà di portare qui a Cefalù appunto per cercare di custodire al meglio. Per cui, ripeto, trattasi esclusivamente di un intervento parziale di un solo locale che è a piano terra, lì dove viene progettato questo centro visite, che è un centro visite che riguarda un intervento diciamo che riguarda poi tutti i comuni che appartengono all'ente parco. Grazie signor Sindaco. Colleghi consiglieri, se non ci sono interventi mettiamo ai voti la proposta di delibera. Non ci sono interventi? Prego consigliere Tumminello. Grazie Presidente, un intervento brevissimo il mio che serve soltanto a ribadire quello che è stato sostanzialmente un intendimento comune non solo all'interno della prima commissione ma anche all'interno della terza commissione. Evidentemente questo consiglio credo alla sua unanimità a questo punto di poterlo affermare preventivamente, salvo smentite, ritiene diciamo di dover salvaguardare questo sito. È un sito, quello del Bastione, di Capo Marchiafava, che ha una notevole importanza da un punto di vista storico, da un punto di vista artistico, da un punto di vista patrimoniale, e di certo la gestione a titolo gratuito per 20 anni da parte dell'ente parco delle Madonie non garantisce molto la città e soprattutto non viene incontro a quella che è un'esigenza che è la città, cioè quella di mettere a reddito, di far funzionare, diciamo tra virgolette, in termini economici meglio quello che è il suo patrimonio. Ma soprattutto si verrebbe a mortificare quella che è un'aspirazione che tanti amanti, diciamo, della storia antica di questa terra hanno, ovvero sia la possibilità di veder nascere a Cefalù un museo civico, un museo che possa degnamente, dignitosamente, e ripetisco dignitosamente, cominciare ad ospitare e a offrire al pubblico dei visitatori la grande mole dei ritrovamenti archeologici fatti nel territorio del comune di Cefalù, ma non solo. A tal proposito mi piace, con la gentilezza, diciamo, cui è abituato il Presidente, poter sottolineare che proprio mentre noi riceviamo da parte di Sosvima questo invito a cedere, diciamo, i locali in comodato d'uso, proprio dai beni, diciamo, dalla sovrintendenza di Palermo e quindi in particolar modo, diciamo, dal settore che si occupa di studi archeologici, giunge un ulteriore sollecito al nostro comune. Un sollecito datato il 10 ottobre del 2012, con cui appunto veniamo invitati a lavorare proprio per la costituzione e la creazione di un museo. Credo che questa debba essere la direzione, diciamo, da percorrere, e di conseguenza la proposta della Sosvima non può essere, diciamo, accettata, a mio parere, da questo consiglio, anche perché, e qui chiudo, già il Parco delle Madonie ha una sua sede a Cefalù, che ha una certa visibilità, si trova in Corso Ruggero. Noi ci auguriamo, signor Sindaco, che questo edificio possa essere comprato e acquistato dal Parco delle Madonie, anche per venire incontro a quelle esigenze di risanamento che tutti conosciamo. Grazie. Grazie, consigliere Tumbinello. Avete alzato la mano praticamente in contemporanea. Consigliere Barranco, il consigliere Celab avrà la pazienza. Consigliere Scialab, per anzianità ovviamente di servizio. Grazie, non... grazie. Anche perché, signor Presidente, signor Sindaco, vorrei ricordare che trattasi di un immobile di interesse storico, di interesse che Cefalù è legato a questo, diciamo, immobile da tempi, quando c'era la scuola alberghiera, c'erano altre istituzioni, evidentemente, che faceva davvero onore alla città. Ci fu pure l'ufficio tecnico, e proprio in questo momento, se non ricordo male, tempo fa questi locali dovevano essere, proprio con i project finanze, e il sindaco in questa occasione era pure presente, ed è stato, diciamo, non sottovalutato, ma almeno il comune aveva un reddito annuale da parte di chi doveva prendersi in gestione questo locale. È sfallito, non lo so per quale motivo, perché le carte sono state presentate dopo, oppure qualcuno ha presentato il prezzo dentro la busta. Ora, questo locale è importante per Cefalù, visto in questo momento che il comune dovrebbe vendere, proprio per andare incontro ai debiti che noi abbiamo per la vendita di altri locali, e quindi toglierci di questo bene mi pare una cosa assurda, e mi pare una cosa che non è, da parte mia non accetto, e quindi io voto contrario. Grazie, consigliere Scialab. Consigliere Barranco. Consigliere Messina, si era pure prenotato. Microfono, consigliere Barranco. Allora, io su questo discorso che diceva il consigliere Tumbinello, posso? Consigliere Barranco, prego. Sul ragionamento che faceva il consigliere Tumbinello, che in linea di massima mi trova d'accordo, ma nella parte in cui si dice che non possiamo cedere alla Sosvima in quanto già abbiamo dato per la Sosvima. Poi veda, consigliere Tumminello, il discorso del museo, per me in questo momento il museo che ha bisogno la città è quella di non incorrere al dissesto finanziario. E noi, quello è stato il motivo che ci ha mosso in quella riunione che abbiamo fatto, di non cedere o concedere per 20 anni, la terza commissione, concedere per 20 anni questo sito che è storico e quant'altro. A noi interessa che se il sito viene acquistato e porta dei soldi che al comune in questo momento servono tantissimo, benissimo, allora noi lo cediamo ben volentieri, ma per un bene maggiore che è il bene della città di Cefalù, quello di non arrivare al dissesto. Punto, solo questo qui volevo precisare io. Grazie consigliere Barranco. Se non ci sono altri interventi, metto ai voti la proposta di delibera. Allora, chi è favorevole alla proposta di delibera alzi la mano. Favorevole. Chi è favorevole alla proposta di delibera alzi la mano. Chi è contrario? Contrario all'unanimità. La proposta di delibera è respinta all'unanimità. Siamo al secondo punto all'ordine del giorno. Consigliere Cortina. Allora, ripropongo di nuovo la stessa, se possiamo prelevare i punti 3, 4 e gli altri, e questo lo mettiamo magari per ultimo, visto che non è di carattere d'urgenza, è completamento. Dal punto 3 al punto 11. Esatto. Vabbè. Grazie. Metto ai voti la sua proposta. Presidente, dico, mi scusi, il carattere d'urgenza per tutti l'abbiamo dato. Come dice, non ha carattere di urgenza. L'abbiamo votato. L'abbiamo votato per... Allora. Punto 2 è il ripigliare. Prego, consigliere. Sull'ordine dei lavori, ovviamente, consigliere Bertrand. Va bene, va bene. No. Se lei mi chiede di intervenire, ancora non siamo entrati nel punto 2. Sull'ordine dei lavori, va bene. Una proposta che viene da parte del consigliere di maggioranza, no? È giusto che mi esprima. Sulla proposta del consigliere Cortina. Allora. Appunto, è giusto che mi esprima, così facciamo più completezza nella cosa. Veda, io qui al punto 2 leggo che questa, che questo, aspetta che mi tolgo gli occhiali, si trascina già questa storia dal 1985. Quindi, se non ha urgenza dal 1985, quando è che la deve avere questa urgenza? Dico, penso che sia molto, ma molto urgente, e vorrei aggiungere qualche cosa, Presidente, a sua memoria e anche quella del Sindaco. Sì, sì, questa cosa che aggiungo è anche a memoria del Presidente e del Sindaco, cioè affinché non ve la dimentichiate poi nel futuro. Siccome si tratta della zona San Cosimo, no, no, quello che voglio dire è un'altra cosa. Nel 1985 avevo 18 anni. Secondo me è molto importante, io parlo di una cosa che al riguardo secondo me si trascina dal 1994. E mi deve scusare, forse non vado, penso, fuori tema, però è una cosa che tengo a precisare visto il punto all'ordine del giorno. Caro signor Sindaco, lì è una zona che è stata ampiamente sviluppata, lottizzata, e quelle che mancano sono le cosiddette oneri primari, come che oneri di urbanizzazione primari. Il mio riferimento è soprattutto al discorso dell'acqua, che io a mia memoria non mi ricordo che questo discorso sia stato mai parlato e trattato in Consiglio Comunale. Ed ecco perché io questa sera propongo sia al Presidente e al Sindaco, e magari se c'è poi di raccogliere le famose 5 firme le raccogliamo, di sistemare una volta e per tutte quella zona. perché è impossibile. Noi siamo trattati come cittadini di serie B in quella zona. Io abito in quella zona dal 1994 e mi devo essere costretto ad ogni volta che devo andare a pagare il canone, pagarlo per 4 volte in più di come lo paga un comune cittadino di Cefalù. E questo non è più possibile. Il signor Giancadella, che ci ha fornito questo servizio per tantissimi anni, e che peraltro io penso che una volta che questo servizio potrebbe passare al comune, chissà se l'avremo più quest'acqua che sino ad oggi abbiamo avuto. Però è una cosa che il sindaco si deve fare portatore affinché una volta e per tutte si faccia una cisterna, un serbatoio che lo gestisca direttamente il comune, perché noi in questo momento siamo costretti a pagare 2 bollette. Una per il signor Giancardella che gestisce il servizio e una al comune di Cefalù che in materia l'acqua la gestisce direttamente l'ente. Quindi ecco questa segnalazione. Per quanto riguarda il punto, io direi di andare avanti perché ci sono le dichiarazioni poi della terza commissione, che vedrete che sarà ancora più facile del primo punto che abbiamo votato. Grazie. Grazie consigliere Barranco. Comunque prego, consigliere Liberto. No, per dire e per ricordare, dico che quello che precisavo poco fa, dico, noi abbiamo votato gli scemi d'urgenza su tutti i punti. E pur avendo sostenuto, dico, la mia persona l'altra volta sulla questione di mettere i punti all'ordine del giorno, e magari questo sembrava non essere così urgente, mi rendo conto che uno che aspetta dagli anni 80 per costruire, dico, a questo punto io ho voluto dare anch'io questa estrema urgenza alla cosa, so per questo ho votato gli scemi di urgenza. Però ripeto, su questa questione, signor Presidente, non c'è neanche niente da dire su questa presa d'atto, anzi, se vuole la mia propria opinione, avremmo potuto ancor più accelerare la questione facendola d'ufficio e non passando al Consiglio Comunale, che non aveva neanche importanza in questo caso. Dobbiamo fare una presa d'atto, dico, non è che dobbiamo fare qualcosa di particolare. E neanche penso che potrebbero esserci interventi per la quale sulla questione, anzi potremmo forse, come dice il consigliere Baranca, andare molto più spediti di quel punto precedente. Grazie Presidente. Grazie consigliere Liberto. Io ribadisco che... scusi. Consigliere Cortina. Ritiro la mia proposta, visto che stiamo... La ringrazio. Glielo stavo graziosamente per chiedere. La ringrazio. Io ribadisco quello, consigliere Liberto, la ringrazio per il suo intervento, quello che ho detto anche l'altra volta. I punti che assumono carattere di necessità e di urgenza vengono inseriti ovviamente con una procedura prioritaria nell'ordine del giorno. Se c'è però qualche delibera che è stata esitata dalle commissioni, sinceramente mi sembra anche giusto inserirla per fare in modo che si vada spediti con i lavori del Consiglio Comunale. Questa è una precisazione che volevo dare a tutti quanti sul metodo che tento di utilizzare. Poi posso anche essere, non perfettamente comprensibile, però io per esperienza, per prassi e per anche logica cerco di non tenere sul tavolo della Presidenza punti all'ordine del giorno che siano già stati esitati dalle commissioni, fermo restando che ci devono essere tutte le carte a posto e tutti i pareri. Grazie comunque per i vostri interventi, ringrazio il consigliere Cortina per la disponibilità. Andiamo avanti allora, quindi presa d'atto del definitivo assetto di zona e dell'edificabilità del terreno distinto in catasto al foglio di mappa 18 particelle 1207, 1220 e 1235 da inquadrare quale completamento del piano di lottizzazione San Cosimo approvato nel 1985 e successive modifiche. Vado a leggere la proposta, che ovviamente viene dal responsabile del settore lavori pubblici, edilizia privata, pubblica, espropri, trasmette al Consiglio Comunale per l'adozione della presente proposta di deliberazione. Premesso che con istanza assunta al protocollo generale in data 26 marzo 2010 al numero 7850 allegato A, la signora Corso Daniela, nel dichiararsi proprietaria, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa numero 18, particelle 1207, 1220 e 1235, e trasmetteva gli elaborati progettuali riservandosi di produrre copia del titolo di proprietà, che la Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con nota 900, protocollo 953, diamo il benvenuto al consigliere Riggio. No, ci siamo col numero. Non capisco. Prego. Sì, no, comunque il numero legale c'è. Sì, sì. L'abbiamo segnato, grazie consigliere Scialla. Quindi, se il consigliere Genovese si è allontanato, dobbiamo sostituire un... ma si è allontanato il consigliere Genovese? Ha comunicato alla segretaria generale. Dobbiamo sostituire allora gli scrutatori. Consigliere Cortina, le chiedo questa cortesia. Va bene. Proseguiamo. Premesso che la Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota protocollo 953 ottava del 12 novembre 2010, posizione BBNN 100965, assunta al protocollo generale di questo ente in data 17/11/2010 al numero 26227 allegato B, in autotutela avviava un procedimento di revoca del silenzio assenso maturato relativamente al progetto per la realizzazione di un edificio per civile abitazione in Cefalù, contrada San Cosimo, foglio M18, particelle 1207, 1220 e 1235, ditta Daniela Corso, con nota datata 22 marzo 2011, assunta al protocollo generale di questo comune in data 23 marzo 2011 al numero 6633, allegato C, la signora Corso Daniela, nel dichiararsi proprietaria, a seguito dell'avvio del procedimento di revoca del silenzio assenso da parte della Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali sopraindicato, comunicava di aver acquisito da parte della predetta Sovrintendenza nulla osta protocollo 1676, ottavo del 2 marzo 2011, riferimento regionale, unità operativa ottava numero 2096 del 28 febbraio 2011 e contestualmente trasmetteva, sempre con la stessa nota, nuovi elaborati progettuali in sostituzione degli elaborati già presentati e fotocopie del sopradetto nulla osta, che in data 20 maggio 2011 protocollo numero 11502 veniva assunto al protocollo generale del Comune del parere favorevole della Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali, protocollo numero 1676 ottavo del 2 marzo 2011, posizione BBNN 10965, allegato D, reso ai sensi del decreto legislativo numero 4204, inerente alla rielaborazione progettuale del fabbricato per civile abitazione da realizzarsi in contrada San Cosimo sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa 18 particelle 1207, 1220 e 1235, ditta Daniela Corso, che con istanza a firma del signor Mangano Carmelo, nella qualità di legale rappresentante della ditta Edil 5 di Mangano Carmelo e Sergio Giuseppe SNC, assunta al protocollo generale di questo ente in data 6 giugno 2011 al numero 12588 allegato E, nel dichiararsi nuovo proprietario del medesimo appezzamento di terreno, sito in contrada San Cosimo delle particelle sopra individuate, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione sul lotto di terreno sopra specificato, venisse intestato alla ditta del 5 di Mangano Carmelo e Sergio Giuseppe SNC e a tal fine allegava atto di compravendita del 24 dicembre 2010, repertorio 57939 registrato in Cefalù il 24/1/2011 al numero 149 in notario Emilia Anastasi di Cefalù, con il quale il signor Culotta Eugenio vendeva e trasferiva alla società del 5 di Mangano Carmelo e Sergio Giuseppe SNC gli appezzamenti di terreno così distinti: A, primo appezzamento di terreno foglio 18 particella 1214 di area 1201, particella 1213 di centiare 77, particella 1215 di area 449. B, secondo appezzamento di terreno foglio 18 particella 1207 di area 706, particella 1220 di area 251, particella 1235 di area 243. Atteso che il lotto di terreno su cui si chiede la richiesta di rilascio del permesso in questione, lotto 6, ricade all'interno della perimetrazione del piano di lottizzazione San Cosimo approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 174 del 20 giugno 1985, riscontrata legittima dalla CPC in data 9 gennaio 1986, numero 60671-1728 con le prescrizioni ed indicazioni contenute nei pareri della Commissione Edilizia, dell'Ufficio del Genio Civile, della Sovrintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici e all'Ufficiale Sanitario il piano all'interno della sottozona F5 di PRG, ditta Culotta Eugenio, già realizzato e la cui autorizzazione a lottizzare è decaduta per decorrenza dei termini decennali del rilascio, che con successiva delibera di Consiglio Comunale numero 116 del 16 marzo 1988 veniva approvata la variante al piano di lottizzazione di cui sopra con allegato lo schema di convenzione composto da 19 articoli di cui alle istanze del 27 ottobre 1986 protocollo 27332 e del 20 marzo 1987 protocollo numero 6228 del signor Culotta Eugenio. In data 21 dicembre 1992 veniva stipulata dal dottor Emilio Anastasi, notaio in Cefalù, convenzione di lottizzazione tra il comune di Cefalù da una parte e il signor Culotta Eugenio dall'altra, repertorio numero 32.444, raccolta numero 11.777, allegato in stralcio F, che il Consiglio Comunale illo tempore, con le delibere di approvazione del piano di lottizzazione in questione e sua variante, ha negato la possibilità di costruire sui lotti 1, 3, 6, 9, conformemente al provvedimento della Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali numero 2124 del 16 febbraio 1985, infatti per quanto riportato nelle planimetrie allegate alla Convenzione in cui l'articolo 2 è dato leggere, la lottizzazione delle aree indicate in premessa avverrà in conformità alle previsioni del PRG vigente, in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione, nonché in conformità alla previsione delle planimetrie allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che le particelle 1207, 1220 e 1235 del foglio di mappa numero 18 del Comune di Cefalù, oltre ad aver costituito il lotto 6 del piano di lottizzazione di qui sopra quale parte integrante del piano medesimo, così come indicato nella tavola 4 datata 20 ottobre 1986, di cui alla Convenzione di lottizzazione del 21 dicembre 1992, repertorio numero 32.444, raccolto numero 11.777 e trascritta alla Conservatoria del Registro Immobiliare di Palermo il 9 gennaio 1993 numero 639 d'ordine e numero 503, sono oggi oggetto di richiesta di permesso di costruire da parte della ditta Edil 5 di Mangano Carmelo e Sergio Giuseppe SNC, constatato che in sede istruttoria incalcia la nota del 19 settembre 2011 protocollo 273 dell'ufficiale tecnico geometra Giuseppe Iacuzzi, allegato I. Il responsabile di settore il 20 settembre 2011 apponeva il seguente parere recante rilievi, annotazioni e disposizioni. La sovrintendenza tutela interessi pubblici posti a salvaguardia dei valori paesaggistici che seguono la sensibilità e l'attenzione dell'opinione pubblica, nonché la trasformazione del suolo circostante in queste dinamiche modificabili nel tempo, possono cambiare legittimamente a notevole distanza di tempo sulla medesima pratica sia in termini soggettivi che oggettivi. Alla luce di ciò potrebbe non necessariamente essere incoerente il parere espresso nel 2010 rispetto a quello espresso nel 1985, da qui anche la ragione della decadenza quinquennale del parere. Ai fini urbanistici piuttosto rilevano le prescrizioni poste dal Consiglio Comunale all'approvazione del piano di lottizzazione a prescindere dalle motivazioni che le hanno generate. Pertanto, ove sul lotto sia stata negata la possibilità di costruire per scelta del Consiglio e dove le opere di urbanizzazione non siano comprensive della volumetria di cui si propone la presa d'atto della proposta di progetto, corredata dal prospetto di verifica degli indici urbanistici di zona che vanno rispettati al fine di fare determinare l'organo al riguardo, rimangono salve ulteriori verifiche su ulteriori elementi progettuali. Nella suddetta nota datata 19 settembre 2011, protocollo numero 273, il medesimo responsabile del settore lavori pubblici, edilizia privata, pubblica e espropria apponeva, sempre in data 20 settembre 2011, quanto segue. Si rileva, articolo 2 della Convenzione di lottizzazione, che il Consiglio ha negato la possibilità di costruire, pertanto è necessario il passaggio in Consiglio, anche in riferimento alla dimensione del lotto che per la presenza di una strada privata non prevista in piano risulta inferiore al lotto minimo, punto 7, articolo 21, RE. Dalla Convenzione di cui è la delibera di Consiglio numero 116 del 16 marzo 1988 si evince che i lotti 1, 3, 6 e 9 non sono stati computati al fine del calcolo delle opere di urbanizzazione secondarie e che sebbene le opere primarie erano dimensionate per la totalità dei lotti, di fatto le stesse hanno trovato una seppur lieve e diversa distribuzione rispetto all'approvato che comprende tra l'altro una strada interna al lotto numero 6 in questione che serve il lotto 5, inizialmente servito diversamente, che risulta di uso comune ai due lotti, la quale alla luce del punto 7 articolo 21 del vigente regolamento edilizio riduce sotto la dimensione minima il lotto in questione. Con istruttoria tecnica dell'ufficiale tecnico dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata di questo comune datata 25 luglio 2011 protocollo numero 217 allegato G e la sua successiva nota 9 agosto 2011 protocollo numero 237 urbanistica allegato H. Nella relazione tecnica integrativa al progetto oggetto di permesso di costruire trasmessa dal legale rappresentante della Edil 5 di Mangano Carmelo e Serio Giuseppe SNC, nota presa in carico al nostro protocollo generale in data 22 settembre 2011, protocollo 21.079, il tecnico asserisce tra l'altro che il lotto sopradetto ha una superficie complessiva di metri quadri 1.200 ed è interessato da una servitù di passaggio carrabile della larghezza di metri 3, metri lineari 3, per una superficie complessiva di metri quadri 63 e 66, istituita di fatto e che interessa la particella numero 1220 per la superficie di metri quadri 56 e 89 e la particella numero 1207 per la superficie di metri quadri 6 e 77, per cui la superficie al netto della servitù di passaggio risulta pari a metri quadri 1136 e 34, il tutto come meglio evidenziato nella tavola 2 di progetto modificata allegata alla presente relazione integrativa. Sulla nota di trasmissione del protocollo 21.079 del 22 settembre 2011 della sopradetta relazione integrativa, vedi l'istruttore del responsabile istruttore di questo comune, del 26 settembre 2011 protocollo numero 280 urbanistica relativa alla trasmissione di documentazione integrativa trasmessa alla ditta del 5 con nota datata 31 agosto 2011 protocollo numero 19.187. Il responsabile di settore lavori pubblici edilizia privata, pubblica e espropria poneva in calce il proprio parere. Non appare dimostrata residualità del lotto stante che sulle aree limitrofe appartenente alla medesima zona di piano regolatore generale non è stato definito alcun assetto urbanistico nonostante la presentazione di un programma costruttivo in fase di istruttoria. Pertanto è necessario. Grazie. Ciao Francesco. Dimostrare tecnicamente tale requisito impossibilità ad essere annesso al nuovo piano costruttivo al fine di consentire la deroga anche sulla dimensione del lotto minimo previa presa atto in consiglio. Il suddetto parere sintetizza il contenuto della nota del 4 ottobre 2011 protocollo numero 21.986 del responsabile del settore lavori pubblici edilizia privata pubblica e espropri di riscontro alla nota protocollo 21.079 del 22 settembre 2011 della ditta Edil 5 di Mangano Carmelo e Sergio Giuseppe SNC. Con successiva nota datata 16 dicembre 2011, assunta al protocollo generale in pari data al numero 29.960 l'ingegnere Carmelo Mangano, al fine del rilascio del permesso di costruire, inviava numero 5 copie di tavole 2, cartografia, profilo terreno, planimetria generale. Con nota protocollo numero 9, urbanistica del 9 gennaio 2012, l'ufficiale tecnico istruttore trasmetteva al responsabile del settore propria istruttoria in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dall'ingegnere Mangano con nota del 12-12-2011 protocollo numero 29.960. Nella nota di riscontro alla ditta che ne seguiva, nell'evidenziare la mancanza dei provvedimenti autorizzativi con cui era stata realizzata una strada di servizio al vicino lotto 5, si evidenziavano problematiche connesse al rilascio da parte del Genio Civile del nulla osta ex Regio Decreto 523-1904 sul corso d'acqua insistente sul lotto. Con nota protocollo 18.003 del 23 luglio 2012 allegato L, veniva acquisito al Comune il parere protocollo 272.125 del 19 luglio 2012 del Genio Civile di Palermo, unità operativa 9, in cui si evidenzia che l'incisione esistente all'interno della lottizzazione San Cosimo non ha le caratteristiche per le quali sia possibile attribuirgli natura di corso d'acqua pubblica. E come tale non assoggettato al Regio Decreto numero 523 del 25 luglio 1904. Considerato che, alla luce dei pareri favorevoli della Soprintendenza sopra richiamati ed inerenti l'edificabilità del lotto 6, nelle more del completamento dell'iter istruttore della pratica che potrà portare anche all'emissione dei provvedimenti di sanatoria necessari alla regolarizzazione amministrativa della sopraindicata strada, si rende necessario demandare al Consiglio Comunale l'accoglibilità o meno di far edificare sul lotto 6 oggetto di esclusione nella richiamata convenzione approvata dallo stesso organo con delibera numero 11 del 16 marzo 1988, anche in ragione del fatto che il lotto di terreno oggi oggetto di richiesta di rilascio del permesso di costruire risulta essere inferiore al prescritto lotto minimo previsto dal vigente piano regolatore generale, metri quadri 1200. Non ha i caratteri per essere allo stato considerato intercluso o residuale, perché, essendovi altra zona territoriale omogenea limitrofa, in cui in atto e in itinere ma non completato l'iter di approvazione di un programma costruttivo, vi sono potenzialmente diversi assetti urbanistici, soprattutto viari, configurabili nella zona, per cui il Consiglio, nell'ambito della sua autonomia, potrebbe ancora effettuare scelte programmatorie distinte sul sistema viario secondario della zona. Che nell'ambito del piano di lottizzazione di cui il lotto faceva originariamente parte, non sono state destinate le aree di cui alle opere di urbanizzazione secondaria inerenti alla volumetria realizzabile sul lotto medesimo. Che è stata realizzata una viabilità di servizio ad altro lotto non prevista per piano di lottizzazione originario e pertanto non è consentito l'intervento costruttivo diretto perché si è accertata la sussistenza di una situazione di fatto non perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo. Tra l'altro il Consiglio Comunale aveva precedentemente ed espressamente escluso l'edificabilità del lotto in questione facendo proprie le ragioni della soprintendenza. Che in riferimento alle problematiche urbanistiche di qui sopra, per la loro valenza ed incidenza, le determinazioni che si devono assumere sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, stante che si tratta di scegliere la modalità e l'assetto territoriale definitivo di una zona. Tutto ciò premesso, viste le leggi, 17 agosto 1942, numero 1150, 7 agosto 67, numero 765, 28 gennaio 1977, numero 10, vista la legge regionale numero 71 del 27 dicembre 78, articolo 14, visto il decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968, vista la circolare dell'assessorato regionale territorio e ambiente numero 278 del 3 febbraio 1979, visti i pareri di quell'articolo 53 della legge 149-90 allegati, propone al Consiglio Comunale, per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, di deliberare, di approvare le premesse del presente atto deliberativo quali parti integranti dello stesso, di dichiarare l'edificabilità del lotto 6 come parte integrante di completamento del piano di lottizzazione San Cosimo già largamente attuato, in conseguenza di ciò di prendere atto del definitivo assetto di zona, compreso il nuovo assetto viario che risulta armonico con quanto già esistente, così come rappresentato negli elaborati a corredo della presente, di accogliere la deroga di cui alle dimensioni del lotto minimo, che viene a crearsi al netto delle opere di urbanizzazione secondaria se individuate sul lotto, delle servitù di passaggio e di eventuali aree demaniali di corsi d'acqua insistenti sul lotto, venendosi a determinare così, in conseguenza della presa d'atto dell'assetto di zona, le condizioni per la residualità del lotto. Dare atto che il lotto, nel rispetto dei parametri urbanistici e nei vincoli vigenti, potrà essere edificato nella considerazione che gli standard urbanistici della zona, in quanto alle opere di urbanizzazione primarie, sono sufficienti perché già inclusi e computati, anche per la futura volumetria del lotto in questione, tra quelle realizzate in accordo alla convenzione del piano di lottizzazione originario e successive varianti. In quanto alle opere di urbanizzazione secondarie, dovranno essere individuate autonomamente sul lotto o altrove, purché all'interno dell'originaria perimetrazione di piano, in ragione alla dimensione dei progetti da realizzare sul medesimo lotto. Di dare atto altresì che le opere di urbanizzazione già realizzate del piano di lottizzazione in questione, che non sono state trasferite al patrimonio comunale nei termini di quell'articolo 3 della Convenzione del 21 dicembre 1992, repertorio 32.444, raccolta numero 1777, notario Emilio Anastasi Incefalù, in conformità all'articolo 11 della stessa, potranno essere cedute al Comune a semplice richiesta ove lo stesso ne ravvisasse la necessità, previo sopralluogo che ne confermi il loro completamento e collaudo delle stesse. Di dare mandato al responsabile del settore lavori pubblici, edilizia privata, pubblica ed espropria a porre in essere tutti gli atti necessari e successivi all'approvazione della presente, di allegare alla presente, perché ne costituiscano parte integrante, i seguenti documenti in copia conforme già citati in premessa con notazione alfabetica. E ci sono tutti gli allegati che sono stati citati nel corso della proposta della delibera. Leggo anche il parere della prima commissione consiliare e della terza che si sono riunite su questo punto. Siccome era stato citato nella proposta di delibera una convenzione che che interessava questa lottizzazione, per quanto datata nel tempo, mi è sembrato giusto coinvolgere per un parere anche strettamente formale la prima commissione. Allora, la prima commissione, riunitasi il giorno 12 del mese ottobre 2012 alle 8.30 presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale per prosecuzione di seduta, discute sui seguenti punti dell'ordine del giorno e a proposito dell'oggetto della nostra discussione, esaminata la superiore proposta di delibera, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, considerato che l'edificabilità del lotto in esame è parte integrante del piano di lottizzazione San Cosimo già largamente attuato. Prima Commissione. La terza Commissione, riunitasi il giorno 10 del mese ottobre 2012 alle ore 15.30. Presidente. Scusate, colleghi consiglieri, c'è qualche domanda? Il consigliere Barranco ha fatto la stessa domanda sua. La ripeto, consigliere Barranco, siccome... Non sull'aspetto... Non è stata una mia iniziativa, siccome nella proposta di delibera viene riportata, sebbene, lo ripeto, sebbene datata una convenzione che il Comune ha stabilito presso il notaio Anastasi allora, nel 1988, mi è sembrato giusto, dico, posso anche aver forzato un attimo il regolamento. No. Mi spiace doverla correggere, consigliere Barranco. E io non lo prendo come un rimprovero, bensì come un'esortazione. Consigliere Barranco, l'invio delle proposte di delibera alle commissioni è strettamente, diciamo, modus comunque di iniziativa da parte del Presidente. È chiaro che io ho, tenendo conto delle attribuzioni delle singole... Sì. La cosa fa domani. Ci invita a tutte le commissioni economiche e finanziarie della prima. Sì. Che significa? Non è sono così. Sono delle cose distinte e separate. La terza commissione ha un compito, la prima un'altra, la seconda un'altra e la quarta un'altra. Non mi permetterei mai di confondere le acque in questo modo, consigliere Barranco. No, semplicemente di confusione questa volta. Siccome la prima commissione si occupa anche di affari generali e di tutto quello che riguarda la pianificazione e la programmazione, mi è sembrato che, visto che c'era una convenzione particolarmente datata nel tempo, la prima commissione potesse esprimere un parere, anche se, lo dico, strettamente formale. Quindi la ringrazio. Si è trattato, credo, di un quarto d'ora non di più di presa d'atto da parte della prima commissione. Non credo che sia una cosa così. Allora, in merito al punto che stiamo discutendo invece, la terza commissione, esaminata la superiore proposta dopo ampia e accesa discussione, suppongo che il consigliere Barranco sia parte di questa accesa discussione, decide all'unanimità di esprimere parere favorevole. Alle 18 il Presidente, lamento il pergamento su cui discute e scioglie la seduta. Quindi ci sono tutti e due pareri favorevoli all'unanimità di entrambe le commissioni. Quindi colleghi consiglieri, ci sono interventi su signor Sindaco? L'occasione è buona per trattare due argomenti che riguardano questa zona, sollevato dal consigliere Barranco, e che non è vero non sono mai stati trattati in consiglio comunale, sono stati oggetto di consigli comunali più volte, sia il problema del servizio idrico, sia il problema della depurazione, cioè del reflui che devono essere, cioè diciamo il servizio di fognatura che deve essere assicurato per tutta l'intera zona. Andiamo andiamo al servizio idrico. Sì, è vero, lì c'è un serbatoio che è di proprietà del signor Giancardella, che viene utilizzato per fornire l'acqua a un'intera zona, e lei diceva: io non posso pagare il privato e il comune. No, il comune non lo paga più, e penso che da un po' di tempo non paga nemmeno più il privato, perché il privato non le fa pagare nemmeno l'acqua. C'è una situazione che l'amministrazione comunale sta seguendo per cercare di risolvere il problema. Cioè, noi vorremmo che, voi vorremmo che APS, prego, prego. No. Allora, senta, signor sindaco, solo per precisare, io pago la bolletta, sia quella del comune, che non è del comune ma è dell'ente gestore dell'APS, e sia quella di Giancardella, perché ogni anno a me mi arriva la fattura, c'ho tutte le fatture che parlano chiaro, e quindi ecco perché veniva questa richiesta. Ultimamente Giancardella non le fa pagare il consumo dell'acqua, le fa pagare soltanto la parte che riguarda la manutenzione dell'impianto di sollevamento, che dallo Cippone arriva lassù, ma lei non paga completamente il servizio idrico, perché in questi ultimi due anni c'è una situazione abnorme che l'amministrazione sta seguendo, cioè il fatto che APS nell'elenco dei soggetti che aveva da sospendere aveva anche quella utenza che serviva proprio a nome di Giancardella, che serviva tutta questa zona. L'amministrazione ha chiesto ad APS di non sospendere quell'utenza, perché si faceva carico di trovare una soluzione che poteva risolvere la problematica per sempre. Che cosa vogliamo fare? Prima di riunire tutti i condomini della zona, abbiamo la necessità di sapere se APS, sto seguendo questa strada, acquisisce o meno il serbatoio e parte dell'impianto che deve essere acquisito. Posto questo, se si riuscirà a concludere questa trattativa, che io sto seguendo direttamente con l'ingegnere Rotolo e anche con l'amministratore, con il commissario liquidatore dell'APS, allora si potrà poi fare una riunione con tutti coloro i quali abitano in quella zona e raggiungere un accordo. Questa è la parte che riguarda il servizio idrico, che poteva, ripeto, andare a finire male se si arrivava alla sospensione del servizio, cosa che è stata scongiurata, perché evidentemente non è una utenza, ma sono decine e decine, se non quasi più di 60 utenze. Per quanto riguarda invece il collettore fognario, noi abbiamo, penso che arriverà la convocazione nei primissimi giorni della prossima settimana, così mi è stato annunciato dall'ingegnere Pirone, capo del Genio Civile. Abbiamo da trattare in conferenza di servizio il progetto definitivo del depuratore Sant'Antonio, cioè il potenziamento per 5 milioni e 300 mila euro del potenziamento del depuratore Sant'Antonio. Se questo progetto sarà approvato in conferenza di servizi, da lì potrà iniziare, evidentemente poi si dovrà andare a gara al maggior ribasso, da lì potrà iniziare una trattativa che è stata sospesa con tutti coloro i quali volevano realizzare, privati cittadini, un collettore fognario che, partendo da quella zona Cippone, San Cosimo, arrivava sino ad allacciarsi all'attuale depuratore Sant'Antonio, ripeto, dopo che è previsto che si faccia un potenziamento. L'unica difficoltà, ma troveremo anche lì la soluzione, è che APS non vuole che questo collettore scenda in modo perpendicolare rispetto a una vecchia trazzera che c'è, che voi ricorderete, che va a finire su per giù dove c'è il campo sportivo Santa Barbara. Invece APS desidera che questo collettore fognario, ma dico si troverà la soluzione, segua la statale, cioè segua la strada Cefalugi Bilmanna, in modo tale da prendere anche alcune di quelle che sono abitazioni che sono a Giardinello e nelle zone più a valle. Ripeto, il tutto però dipende dal progetto definitivo che verrà approvato in conferenza dei servizi e dalla indizione della gara che verrà diciamo subito dopo. Ho parlato di questi due aspetti perché se parliamo di rendere funzionale un altro lotto, cioè di rendere che si può costruire su un altro lotto, dobbiamo pensare sia a questo sia a dare a un'intera zona, come lei diceva benissimo poco fa, i servizi che sono le opere di abitazione primarie, che ormai sono indispensabili per una zona di questo tipo. Voglio dire anche e informare il Consiglio, proprio che riguarda questa zona, che ho incontrato la scorsa settimana il signor Vilardo della Sommatinese, al quale ho chiesto di, indicando dove deve girare l'autobus, che voglio che il servizio dell'autobus venga, che arrivi e giunga il servizio cittadino del pullman, arrivi proprio lì dove c'è il parcheggio per indicare su per giù dove c'è la casa il commissario Cassataro, è quella la zona dove io ho indicato che lei lì dovrebbe girare il pullman, c'è allo studio questa possibilità, il comune si è preso l'impegno che qualora Vilardo ottenga almeno un'osta di massima da parte della motorizzazione, noi potremmo, lì dove ci sono i cassonette, c'è la piazzola ecologica, potremmo prenderci in carico di asfaltare, di far asfaltare o fare cementare questa parte per agevolare questa, diciamo, questa inversione del pullman. Penso che questo, assieme alle cose che abbiamo detto prima, potrebbe dare una seria risposta a tutta un'intera area urbanizzata che dal bivio di Gibilman raggiunge Cippone e San Cosimo. Grazie. Sindaco, una domanda. Sì, consigliere, un attimo, consigliere Sciarabia, posso voler fare una domanda, poi la do la parola. Microfono, consigliere Sciarabia. Mi pare che ci fu allora, quando abbiamo dato quella lottizzazione, non mi ricordo, anni fa, come si chiamava questa lottizzazione, che tu l'altra sera ne hai parlato, faceva parte che, siccome non è comunale, ecco, la cooperativa futura, alcuni volevano alcuni servizi, no, che non spettava a noi, perché è una strada provinciale, non lo so che parte sopra dove abita il professore La Grua o un po' prima, cioè il comune è responsabile fino a un certo punto, perché poi subentra la provincia. Non so se rendo l'idea, sì, se mi sono spiegato. Sì, la perimetrazione, la perimetrazione dell'area urbana è a Giardinello, cioè il ponte di ferro del Giardinello è la perimetrazione urbana. Però noi possiamo tranquillamente, con il pullman, facendo una particolare, diciamo, un particolare accordo con la Sommatinese, raggiungere questa cosa. È evidente che altri tipi, lì quella zona ha bisogno anche di altri tipi di servizi, illuminazione e tante altre cose, e sono cose che vanno fatte nel tempo quando si utilizzano gli oneri di urbanizzazione anziché per fare spese corrente, per fare altro, per spenderli nelle opere che si vanno a realizzare. Consigliere Barranco. E allora, signor Sindaco, mi è piaciuto tutto, diciamo, il suo intervento, di quello che ha detto e che intende fare nella zona San Cosimo e ascendere tutta la strada di Gibilman, arrivare sino alla condotta che poi sarà riallacciata a valle, sempre lungo il percorso della strada di Gibilman. È una iniziativa che gli abitanti di quella zona si aspettavano da moltissimi anni, se arriverà, le dovrò dire grazie per questa cosa. Se non arriverà, però, il grazie non glielo dico, ma sarà forse qualche cosa. Un'ultima cosa le voglio dire, signor Sindaco. Non capisco perché ci chiamiamo Saro e Gecchino, ora questa sera lei. Questo non l'ho capito io alla fine. Forse perché ci sono i ruoli, ci sono i ruoli. Lei è un consigliere comunale, io sono il sindaco. Ho capito. Questa è la sala consiliare, è il luogo istituzionale, lì dove c'è l'espressione massima della rappresentanza dei cittadini perché hanno votato lei. E in questo caso, in considerazione che la legge è cambiata, dei cittadini che hanno votato me. Ho capito. Spero che... È un atto di rispetto, consigliere. È un atto di rispetto da parte del sindaco, consigliere. Grazie, grazie. Questo qui intendevo dire. Grazie consigliere Barranco. Consigliere Liberto. Brevemente, solo per ricordare un passaggio di quando eravamo comuni consiglieri, io e il sindaco, per la questione della cooperativa, perché io mi ricordo in occasione di una commissione quando l'ingegnere Crisà, mi sembra, appunto, mi ricordo che si voleva fare questa fognatura fatta da privati. Al tempo, forse ingegnere Crisà ha dato un parere negativo nel dire che i privati non potevano adoperarsi nel fare opere pubbliche. Dico, volevo ricordare solo questo passaggio, ecco. Ci sono altri interventi, colleghi consiglieri? No? Allora metto ai voti la presa d'atto. Qualcuno manca perché siamo in... Colleghi consiglieri, chi è favorevole alla presa d'atto del definitivo assetto di zona e dell'edificabilità del terreno sito nel piano di lottizzazione San Cosimo? Chi è favorevole alzi la mano. Presidente, dopo quasi 30 anni siamo favorevoli, grazie. Quando eravamo piccoli. Va bene, approvato all'unanimità. Il progetto del 2010 era comunque. Credo che sì, no, c'era compresa nella proposta di delibera. Allora passiamo al terzo punto. Cominciamo con la trattazione dei debiti fuori bilancio. Il terzo punto, esecuzione sentenza del Tribunale di Cefalù numero 322-10, ingegner Pietro Spina contro Comune di Cefalù, proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio. Premesso che è stata emessa la sentenza in oggetto relativa alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'ingegner Pietro Spina nei confronti di questo ente, per danno inerente all'attività espletata e non retribuita a seguito di rescissione di contratto concernente l'incarico di collaudo statico dei lavori di costruzione della strada intercomunale Cefalù-Castelbuono secondo lotto, che l'ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio per gli aspetti normalmente trattati dall'ufficio può discendere in generale dalle lettere A, D ed E dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modificazioni, che nelle ipotesi di cui alla lettera A e D del medesimo articolo le condizioni sufficienti per riconoscere legittimamente i debiti fuori bilancio sono rispettivamente la presenza di sentenze esecutive, procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità, nell'ipotesi di cui alla lettera E invece l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di legge al limite dell'accertata utilità ed arricchimento per l'ente, limitatamente a quest'ultimo caso l'eventuale indennizzo da riconoscere al terzo in ipotesi di autodeterminazione da parte dell'ente per il caso di arricchimento senza causa deve essere pari al minore tra i due valori patrimoniali costituiti dall'arricchimento dell'una parte e dal depauperamento dell'altra. In questi termini e limiti l'ente è tenuto, ove accertata la colpa o il dolo, ad un'azione di rivalsa nei confronti del proprio amministratore o dipendente ed eventualmente in via surrogatoria nei confronti del terzo. Da ciò ne consegue che costituirebbe danno per l'ente l'erogazione al terzo creditore di somme superiori ai limiti fissati dall'articolo 2041 del Codice Civile, in quanto il danno per l'amministrazione non deriva direttamente dall'ordinazione della spesa, ma per il pagamento di somme superiori all'indennizzo previsto dall'articolo 2041 del Codice Civile, da richiedere nell'azione di rivalsa ove non avviata la procedura di rivalsa sul responsabile. Va escluso, ad esempio, che possa essere riconosciuto come debito fuori bilancio il cosiddetto utile d'impresa, in quanto non può essere oggetto di successiva richiesta di indennizzo in rivalsa arricchimento dell'una parte e depauperamento dell'altra. Vedi sezione prima centrale Corte dei Conti 6 maggio 98, Presidente Colella, eccetera, eccetera. Ci sono anche i nomi del resto della Corte dei Conti. Nel caso in specie la determinazione dell'indennizzo è stata determinata con sentenza esecutiva del giudice di primo grado sopra meglio individuata, il quale ha riconosciuto un risarcimento del danno in via equitativa delle spese di lite, degli oneri accessori e delle spese del CTU, oltre interessi alla parte attrice. In specifico, con la citata sentenza, il Tribunale di Cefalù, a fronte di una richiesta di risarcimento formulata dall'attore per complessivi euro 256.704,72 centesimi, ha condannato il Comune a versare in favore dell'ingegnere Spina la somma di euro 6.000, oltre interessi legali e il risarcimento delle spese di lite liquidate in 5.000 euro, oltre oneri accessori e spese di CTU, che l'ingegnere Pietro Spina ha proposto appello avverso la superiore sentenza, che con deliberazione numero 16/2012 la Giunta Municipale ha conferito incarico legale per resistere in giudizio all'avvocato Maurizio Ferreri, che in seguito della notizia in data 6 ottobre 2011 dell'atto di precetto e di istanza dell'ingegnere Spina il debito è asceso ad euro 14.574,74 centesimi, oltre interessi legali, che la procedura esecutiva promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 8 marzo 2012 non è stata coltivata dal creditore, che con nota del 12 luglio 2012 non è stata con nota del 12 luglio 2012 ha acclarato al protocollo numero 17.233, il difensore dell'ente ha comunicato la volontà della controparte di rinunciare all'esecuzione coattiva della sentenza fino alla definizione del giudizio di appello a fronte del pagamento in suo favore della somma di euro 12.000 in conto del maggior importo dovuto in forza della sentenza numero 322-10, che il legale ha suggerito di dare seguito alla proposta di controparte perché scongiura il pagamento di ulteriori oneri, riduce di euro 2.035,64 il pagamento della somma di euro 14.035,64 che il Comune sarebbe comunque tenuto a pagare stante l'immediata esecutività ex legge di tutte le sentenze di primo grado e lascia impregiudicato ogni diritto restitutorio nei confronti dell'ingegnere Spina legato all'auspicato esito positivo del giudizio di secondo grado, che il Sindaco, valutata la convenienza per l'ente di aderire alla superiore proposta, ha disposto di procedere con urgenza al pagamento, considerato che, con atto di indirizzo protocollo numero 495 di gabinetto del 3 luglio 2012, il Sindaco ha disposto di utilizzare il 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio, che il Sindaco altresì disposto di procedere prioritariamente all'esecuzione di sentenze e altri titoli esecutivi, stante l'esiguità delle risorse disponibili, di provvedere con urgente determinazione inoltrando successivamente la proposta di deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, vista la disposizione di servizio del Sindaco protocollo 501 gabinetto del 6 luglio 2012, considerato altresì che con determina numero 16 del 18 luglio 2012 si è proceduto alla liquidazione della superiore proposta della superiore somma con ogni urgenza al fine di evitare l'aggravio di spesa derivante dalla procedura esecutiva e dalla conseguente condanna alle spese del giudizio di esecuzione, nonché al fine di evitare ulteriori danni certi e gravosi a questo ente, che per quanto sopra indicato, essendo la procedura di riconoscimento del debito di cui è la presente inquadrabile tra quelle di cui è la lettera dell'articolo 194 del TUEL, ed essendo l'ente il soggetto passivo diretto dell'obbligazione dell'indennizzo, il cui valore è riconosciuto con sentenza, che non sembrano esserci profili di responsabilità dei funzionari e degli amministratori, stante la complessità giuridica delle questioni sollevate nella sentenza 322-2010. In tale sentenza il danno è stato riconosciuto a seguito di recesso unilaterale del contratto da parte dell'amministrazione nonostante il professionista avesse contravvenuto agli impegni contrattuali assunti. Infatti le clausole contrattuali di quell'articolo 10 del disciplinare d'incarico invocate dall'amministrazione nella delibera di giunta municipale 172-2001 di revoca del conferimento di incarico non sono state riconosciute quali risolutive espresse ex articolo 1456 del Codice Civile dal giudice di prime cure. Tale questione ha avuto come conseguenza diretta che la diffida da adempiere inviata dall'amministrazione non ha avuto effetti risolutori sul contratto. Di fatto vi sono margini per ritenere che quanto statuito nella sentenza 322-2010 citata possa essere ribaltato nel giudizio di secondo grado in ragione del fatto che dette clausole non vengono considerate mere clausole di stile, che alla liquidazione di quanto dovuto in favore dell'ingegnere Pietro Spina deve seguire il riconoscimento del debito fuori bilancio, e cioè in ossequio all'articolo 194 lettera A del decreto legislativo numero 267-2000, tutto ciò premesso propone di riconoscere il debito fuori bilancio di cui in premessa per la spesa complessiva di euro 12.000 e in conseguenza di ciò di dare mandato al settore finanziario di procedere alla regolarizzazione contabile secondo quanto sopra indicato e quanto altro occorra al materiale pagamento della somma, di prendere atto che con determinazione dirigenziale numero 16 del 18 luglio 2012 si è provveduto a liquidare il debito mediante il pagamento in favore dell'ingegnere Pietro Spina della somma complessiva di euro 12.000 al fine di evitare l'aggravio di spesa derivante dalla procedura esecutiva e della conseguente condanna alle spese del giudizio di esecuzione, nonché al fine di evitare ulteriori danni certi e gravosi a questo ente. Di prendere atto che la suddetta spesa grava sul capitolo 1115, di dare atto che il superiore riconoscimento di debito non comporta acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Cefalù numero 322-10 e rinuncia all'appello, di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatte salve ulteriori verifiche delle eventuali responsabilità e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa che potranno essere condotte a giudizio di appello concluso, di trasmettere la presente agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti e l'articolo visto l'articolo 23,5 della legge 289-2002. La proposta è corredata dal parere della prima commissione, è un parere favorevole. Esaminata la superiore proposta, dopo ampia discussione, trattandosi di presa d'atto e provvedimento esecutivo, la commissione all'unanimità esprime parere favorevole. Ci sono interventi su questo debito fuori bilancio? Prego, collega Liberto. Siccome mi è parso di aver capito che il debito diciamo è stato già pagato. Sì. Volevo capire la prassi come funziona in questi casi. Glielo faccio spiegare alla segretaria che credo possa... No, perché sulla questione semplice, solo per capire un funzionamento, dico che io non conosco. Sì, sì, la ringrazio. Perché pensavo che la prassi fosse, che il debito arrivasse in consiglio, fosse autorizzata, diciamo, la spesa e quindi di conseguenza si pagava il debito. Invece mi ritrovo qua una questione diversa, cioè il debito viene pagato prima per evitare ulteriori spese, questo l'ho capito, però in un momento in cui siamo senza bilancio, quindi in una situazione provvisoria, dico cosa succede, come funziona, un po' questo volevo capire, grazie. L'esperto in questione è la dottoressa Sergi, che sicuramente la risponde. La Corte dei Conti ormai con una giurisprudenza consolidata autorizza, diciamo, i comuni a liquidare immediatamente, anche nelle more del riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, tutte le sentenze definitive o comunque esecutive o dotate di esecutività. Questo per evitare appunto maggior danni, laddove ovviamente ci sia la copertura finanziaria, perché diciamo che normalmente la sentenza, intanto comunque il Consiglio Comunale è tranquillo, diciamo, nell'approvare la delibera, in quanto la sentenza in ogni caso va eseguita. Poi ovviamente il giudizio della Corte dei Conti entrerà nel merito per valutare se ci siano o meno responsabilità a monte del debito. Quindi anche in questo caso, pur non avendo il bilancio, avendo comunque la possibilità di utilizzare il capitolo che c'è perché è stato il capitolo c'è dotato di una certa copertura e come finanziamento è stato utilizzato appunto l'incasso volta per volta degli oneri di urbanizzazione, dei proventi derivanti agli oneri di urbanizzazione destinati appunto per questa come cassa, diciamo, ecco, come entrata, come cassa. Quindi, se ho capito bene, lei asserisce che praticamente anche in una gestione provvisoria come la nostra, se il capitolo è adempiente delle somme necessarie, si può anticipare il pagamento. Per evitare maggior danni, una motivazione quindi, dovuta dal... Preciso dico che una sentenza è una sentenza, quindi non è che noi ci possiamo esimere, la sentenza va rispettata. La presa d'atto forse mi sembra più che altro una forma di comunicazione al Consiglio che forse probabilmente non andrebbe neanche votata in questo caso. No, va votata. Visto che il pagamento c'è stato. Votata, anche perché comunque al di là del fatto che comunque è un atto dovuto, però il Consiglio può sempre esprimere, proprio anche entrare nel merito di ciò che è successo anche prima che si arrivasse alla sentenza definitiva. Può anche esprimere delle valutazioni, al di là del fatto che ovviamente è difficile che un Consiglio si assuma la responsabilità di aggravare ulteriormente la procedura, fermo restando che in ogni caso, sempre sentenza è, ma il Consiglio è giusto che, intanto è comunque continua a essere l'unico organo che può approvare i debiti fuori bilancio, diciamo che l'ufficio si assume la responsabilità di anticipare il pagamento e di pagare e lo fa sulla scorta della propria responsabilità, ma l'organo competente è pur sempre il Consiglio. Questa non è una presa d'atto. Sì. Questo no, questa è una presa d'atto. No, no, è sempre una presa d'atto. No. Allora. Dovrebbe essere aggiunto. È presente la dottoressa Costantino, al quale io allora mi permetto di dare la... Vediamo se... Sì. Forse qui l'ingegnere Duca ha dimenticato di nella parte dispositiva di aggiungere che di dare atto che se, perché nella premessa lo ha detto, lo ha letto ora il presidente, lo ha detto. Signor sindaco, io ho fatto una domanda semplice a titolo solo di conoscenza per conoscere, diciamo, la prassi, perché mi sono convinto, per l'esperienza che ho, che il debito fuori bilancio arrivasse in consiglio e si desse l'autorizzazione a spendere i soldi. per... Ho capito attraverso, diciamo, la parte finale di questa delibera che il Comune, diciamo, ha bloccato quello che è l'aggravamento, diciamo, del debito, dell'attesa della pronunzia del Consiglio per bloccare questa cosa, quindi ha anticipato, ha pagato il debito. Quello che ho chiesto formalmente era, non capivo il sistema, in un sistema, diciamo, di gestione provvisoria senza bilancio, come si potesse fare? Allora, solo questo. Signor Sindaco, posso? Sì, certo. Si è fatta la stessa operazione che si è fatta nel 2009, quando abbiamo fatto un emendamento per trovare in sede di bilancio 1 milione di euro, siccome sapevamo, era ottobre, siccome sapevamo che non potevamo spendere quel 1 milione di euro da ottobre a dicembre, e evidentemente si sono fatti tutti i pagamenti per tutti i titoli esecutivi, sentenze, rito arbitrale, e poi si va a ratifica. Quella di questa sera è una ratifica, ma dici, ma il Consiglio perché viene chiamato? Per la sentenza il Consiglio non può votare contro un debito fuori bilancio, però può chiedere l'accertamento di responsabilità per la formazione del debito, per cui se si va a riscontrare che nella formazione del debito, che pure è andata a sentenza, c'è una responsabilità di un funzionario, di un dipendente qualsiasi, o anche di una responsabilità dell'ente, evidentemente il Consiglio può entrare nel merito. Andiamo a questi debiti fuori bilancio. Io ho fatto una direttiva, e che cosa ho detto? L'abbiamo qui la direttiva? No? Viene citata? Sì, ma io ce l'ho. Viene citata, la sappiamo, nel corpo della delibera. Nella direttiva io che cosa ho detto? Per evitare ulteriore l'aggravio di ulteriori spese. L'intendimento. In considerazione del fatto che avevamo una serie di pignoramenti, abbiamo fatto una serie di accordi. Vi devo dire anche che abbiamo trovato alcuni avvocati, alcune ditte che hanno aderito a questi accordi. Per esempio, ve ne faccio uno, noi stiamo chiudendo un debito fuori bilancio con una società che si chiama Farmanebrodi, che a suo tempo ha fornito al Cefalù tutta una materiale che doveva servire per sterilizzare i cani, no? Mi pare che era questo l'oggetto, non che non siano stati mai utilizzati. Questa società che ci ha fatto un pignoramento di 17.000 euro più interessi, spese legali, ci sta chiudendo il debito a 15.000 euro. Facendo i calcoli a quanto arrivavamo ad oltre 20.000 euro. Come questo e come tanti altri si stanno raggiungendo degli accordi, evitando che si insiste col pignoramento, riducendo la spesa. Per esempio, vi devo dire, fra non molto, prossima volta arriverà un debito fuori bilancio di una signora che ha avuto ragione e ha avuto una sentenza favorevole per un incidente di circa 15.000 euro, che ci sta riducendo a 10.000 euro. Questa riduzione di 5.000 euro ci consente di risparmiare. Ecco, allora perché dove lo possiamo fare? Rispondo al consigliere Liberto, che però se lo ricorderà sicuramente, anche al consigliere Messina. Lo possiamo fare esclusivamente per tutte quelle sentenze e titoli esecutivi. Lo prevede una sentenza della Corte dei Conti, è una procedura che si è fatta in tantissimi comuni, cioè noi per evitare ulteriori danni paghiamo e poi portiamo in Consiglio Comunale. Non lo stiamo facendo, non lo stiamo purtroppo continuando, e rispondo ora per il capitolo del bilancio, per molto, perché? Perché stiamo utilizzando soltanto il 50% delle spese correnti e il 50% degli oneri di urbanizzazione che si possono utilizzare per le spese correnti. Evidentemente siamo legati a quello che andiamo incassando. Per fortuna abbiamo incassato degli oneri di urbanizzazione che riguardano i lavori che stanno per partire a Piervacanze, ora Epimag, prima Piervacanze, alcune concessioni che stanno per uscire. Mi auguro che l'ufficio tecnico continui a operare, a far uscire concessioni tali da poter, in regola con la programmazione urbanistica, da poter incassare altri oneri e da poter pagare altri debiti fuori bilancio. In un certo senso stiamo facendo quell'operazione che si dovrebbe fare anche per i debiti grossi, il cosiddetto concordato. Si chiama la società, io l'ho fatto col professore Parlato, lo posso annunciare stasera senza nessuna difficoltà. Ho detto al professore Parlato che deve avere un debito grosso, cioè che deve avere, che ha un credito grosso nei confronti del Comune, noi dobbiamo dare qualcosa come 1.900.000 euro, di ridurci una parte degli interessi, in modo tale da poter raggiungere una quota inferiore di debito da poter affrontare ed evitare di pagare tutta questa somma. Lo stiamo facendo per quelli che sono delle sentenze di piccolo taglio, speriamo di poter riuscire fino a quando riusciamo a trovare le risorse per questo. Evidentemente se avessimo in questo momento, per esempio, faccio un esempio, gli oneri urbanizzazione pagati dal Club Med, potremmo chiudere tante e tante di queste pendenze in sentenze esecutive, lodi arbitrali, da evitare ancora diciamo l'aggressione nei confronti del Comune, che vi devo dire ultimamente è diminuita di tanto. Non vorrei fare la stessa dichiarazione che ha fatto a luglio il comandante della Forestale, quando diceva che non c'era fuoco quest'anno. Però dicevo che in questo momento questa aggressione è diminuita di tanto, cioè abbiamo meno pignoramento, meno diciamo, c'è un momento di... forse, sì, meno pressione, forse perché, concludo, chi ha fatto nel tempo, nel mese di giugno e luglio, questo tentativo si è accorto che il Comune non ha soldi propri, ma ha soltanto anticipazione di cassa, e l'anticipazione di cassa non può essere assolutamente pignorata. Grazie, signor Sindaco. C'erano altri interventi? L'altra cosa, dico, prego, la presa d'atto prevede il fatto della votazione o meno? Oppure un... deve essere votato il debito fuori bilancio, sì. È accaduto... sempre. Consigliere Messina. Sì, no, una cosa sola volevo dire. Nulla osta chiaramente alla una valutazione certamente favorevole, no? A tutte queste prese d'atto, lo posso anticipare. Però io avevo la curiosità, avendo letto la direttiva del sindaco, mi sono un pochettino ieri documentata e sono andata a trovare questa sentenza della Corte dei Conti, che poi è una richiesta del Comune di Palermo relativamente a una parcella, quindi una sentenza esecutiva, siamo perfettamente in linea con tutto quanto. E la sentenza è chiarissima, proprio relativamente alle sentenze esecutive dice però, questa è la mia cosa, dice che il Consiglio Comunale, l'organo assembleare, ha solamente una mera funzione ricognitiva in vista, no, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e che quindi si può esimere da una valutazione e per valutazione quindi io intendo voto, no? La valutazione è voto. Dice deve avere solo una mera funzione ricognitiva, relativamente solo ed esclusivamente a sentenze esecutive. In questo caso nulla osta ad andarle a votare favorevolmente, però dico la sentenza che arriva così. No, no, io qua ce l'ho, dico, l'ho letta, sembrerebbe voler esimere il Consiglio Comunale, perché lo specifica anche, dice, mettiamo il caso che il Consiglio Comunale voti contrario, cioè non è che puoi tu non pagare quello che spetta. A che serve il voto del Consiglio? Il voto del Consiglio serve a prendere un debito fuori bilancio e a portarlo nella contabilità dell'ente, cioè che il debito fuori bilancio è fuori dalla contabilità dell'ente. Con il voto in Consiglio Comunale si rientra questo debito, si riporta alla contabilità dell'ente, tant'è vero che quando poi si approverà il rendiconto del 2012 si andrà a dare atto di quelli che sono i debiti fuori bilancio approvati nell'anno. È vero. Ci sono stati anche dei consiglieri comunali che sono stati condannati per avere votato contro una sentenza esecutiva, lodo arbitrale. È vero, non c'è questo tipo di, non c'è questa sera questa discrezionalità per dire sì o no al debito. Però in questa fase si potrebbe anche trovare e si potrebbe anche, i debiti vanno tutti alla Corte dei Conti, ma ci vanno per un accertamento. È chiaro che se il Consiglio Comunale questa sera dovesse intravedere nei debiti fuori bilancio che si vanno a ratificare alcune responsabilità specifiche e fa una relazione o chiede che si faccia con un emendamento, con una dichiarazione di voto, che si indirizzi quel preciso... Io faccio un esempio. E lo voglio fare però, credetemi, lo voglio fare questo però senza che qualcuno possa pensare che in questo momento ci voglia speculare. È evidente che nel tempo, per tutti i debiti fuori bilancio che noi abbiamo da pagare e che stiamo pagando, è evidente che ci devono essere degli accertamenti delle responsabilità, perché non è possibile, perché il debito fuori bilancio è un fatto eccezionale, cioè ci può essere nell'anno uno o due debiti fuori bilancio che ti arrivano perché tu hai perso una sentenza, allora è un fatto eccezionale, ma quando c'è l'acquisizione di beni e servizi che diventa un fatto invece di routine, allora è un modo per un altro per avere due bilanci paralleli, il bilancio vero e proprio e poi un altro bilancio parallelo che è formato dai debiti fuori bilancio, cioè significa che io posso parallelamente utilizzare le risorse dell'ente sia all'interno della contabilità che fuori della contabilità. È chiaro che ci deve essere, stavo dicendo, un accertamento delle responsabilità. Allora faccio l'esempio. Ipotizziamo che io vi porti all'approvazione il debito fuori bilancio per il fatto che sono stati utilizzati nel 2005 10 mesi di contratti di luce, per cui 10 mesi di fatture, senza che ci sia stato l'impegno di spesa. Cioè a fine anno di un anno ci è arrivata una fattura di 508.000 euro senza che ci sia stato ab origine l'impegno di spesa. Il Consiglio Comunale può chiedere, per esempio, che si accerti di chi è la responsabilità, che si è fatta questa acquisizione di beni e servizi che senza che sia stata fatto ab origine l'impegno di spesa. Ci sarà stato qualcuno, un ragioniere, ci sarà stato qualcuno, un responsabile del servizio che ha fatto partire, diciamo, quella erogazione dell'energia elettrica per illuminare o per sicuramente per dare luce a qualche cosa, in quel caso è stato per esempio il potabilizzatore, senza che ha fatto l'impegno di spesa. È lì che noi troviamo l'accertamento e per cui la ricognizione serve per farla entrare nella contabilità dell'ente. Ma il Consiglio Comunale, la valutazione che può dare su un debito fuori bilancio è quello di chiedere che venga accertata la responsabilità. Quando abbiamo approvato, Mauro se lo ricorda, il debito fuori bilancio dell'EGV Center, va bene, si fu una lunga discussione perché qualcuno adombrò che c'era stata la responsabilità di un legale allora, va bene. È evidente che se quella discussione si trasformava in un vero atto di accusa da parte del Consiglio Comunale chiedendo che si accertasse la responsabilità su fatti specifici, fermo restando che anche quella era una sentenza, la Corte dei Conti poteva essere indirizzata a cercare di chi era la responsabilità. La responsabilità di un danno erariale che si è conclamato e che sicuramente a qualcuno va imputato. La Regione ci chiede 60.000 euro di interessi per somme che noi ci siamo trattenuti qui per finanziare il piano strategico commerciale. Cioè si doveva fare Piazza Duomo, via Veterani e via Porto Salvo. Ci hanno dato un finanziamento di 1.240.000 euro. Li abbiamo messi in cassa, in un sottoconto, hanno fruttato degli interessi, sono stati in cassa 5 anni, noi dovevamo fare un cofinanziamento di 1.800.000 euro. Nel frattempo i professionisti che erano stati incaricati senza copertura finanziaria, buonanima di Pasquale Culotta, poi Tania Culotta, l'architetto Giardina, hanno fatto delle parcelle e poi hanno fatto dei decreti congiuntivi che sono andati definitivamente, che sono stati, diciamo, poi incassati con pignoramento. Allora il Consiglio in quel caso può chiedere l'accertamento delle responsabilità per chi ha dato l'incarico a quei professionisti senza avere prima impegnato le somme. Ci sarà pure stato qualcuno, la Giunta, il responsabile del servizio, che aveva dato quell'incarico. A questo serve il Consiglio Comunale, serve in questa fase con la sentenza. Certo non potrà dire a Tania Culotta non ti pago il servizio che tu hai reso, perché è un debito arricchimento, ha fatto un servizio, ha fatto un progetto. E addirittura la Regione, e concludo, ci chiede 60.000 euro di interessi perché noi ci siamo tenuti i soldi nel sottoconto, per cui oltre ad avere pagato quelle parcelle, a non avere fatto l'opera perché non abbiamo fatto il cofinanziamento, avrete, chi lo vaglierà in Consiglio Comunale, arriveranno 60.000 euro per interessi che dobbiamo restituire all'assessorato alla cooperazione, per cui alla Regione Siciliana. Grazie signor Sindaco. Procediamo alla votazione di questo debito fuori bilancio o ci sono interventi da parte dei consiglieri. Allora, chi è favorevole al riconoscimento di questo debito fuori bilancio, alzi la mano. Sì. Favorevole all'unanimità. Siamo 12, mi pare. Quindi approvato all'unanimità, cioè riconosciuto all'unanimità. Andiamo avanti. Punto 5. Punto 4, scusate. Esecuzione sentenza del Tribunale di Cefalù 257-11 emessa nella causa Centineo Concetta contro il Comune di Cefalù, riconoscimento debito fuori bilancio, presa d'atto.